picchi di frequenza. Storie, viaggi, recensioni. Il settimanale di montagna di Radio Onda d'Urto. Venerdì 15 gennaio, la 16ª puntata di Picchi di Frequenza, che torna con voi per la prima puntata di quest'anno. Parleremo delle regole, le antiche tradizioni del comelico. Avremo poi un'intervista con Paolo Masala sulla sua esperienza di alpinista, ma prima di cominciare, come sempre, le notizie della settimana. Il primo contributo di oggi, a firma Giorgio Robino, appare su osservatorioliberta.it. Il titolo è Google Maps Track libera l'esploratore che c'è in te. In realtà il titolo è posto in forma interrogativa, o meglio aggiunge un punto di domanda al titolo di un progetto che è una sorta di spin-off di Google Street View, quell'applicazione che utilizziamo alla ricerca di itinerari, di case di amici, di città d'arte, nel tentativo di mappare le vie escursionistiche ed alpinistiche un po' in tutto il mondo. Ovviamente è un progetto che ha una sua ambiguità, non soltanto per la provenienza commerciale, ma perché apre una discussione sul tema della privacy, della geolocalizzazione, della mediazione, dell'esperienza della scoperta e dell'esplorazione attraverso la tastiera, il computer, la rete internet. È sicuramente un contributo che, oltre a dare un approccio molto critico, passa in rassegna anche alcune delle problematiche principali, e quindi vi invito assolutamente a leggerlo. La seconda notizia di oggi purtroppo ha un tono ben più cupo, perché una valanga ha travolto una comitiva di studenti, tra gli altri Les Deux Alpes in Francia. Ci sarebbero due morti e alcuni feriti gravi, e questo ci ricorda evidentemente anche della pericolosità della neve che resta appoggiata ai pendii anche in prossimità, insomma, di stazioni sciistiche. E purtroppo, insomma, in questa stagione sono cose che vale la pena comunque ricordare, perché bisogna stare sempre piuttosto attenti. Passiamo infine ad un divertissement tratto da Alpinismo Molotov. Pubblicano un articolo dal titolo Alpinismo Molotov vi manda a fare Inc., che è appunto un gioco, un divertissement tra commercializzazione e genuinità della pubblicistica nostrana, insomma, di affetto per la montagna, ma anche di presa per il culo, insomma, di quanti vorrebbero specularci. In ultimo, una segnalazione, perché qui di montagna si parla, ma ci vogliamo anche andare. Perché la prossima domenica, 24 gennaio, l'APE di Milano organizza la prima gita sociale di stagione al Monte Resegone, con partenza per i milanesi alle ore 6:30 da Piano Terra. Per tutti gli altri, insomma, scriveteci milanoape@gmail.com oppure al sito ape-milano.it. Iniziamo stasera uno speciale di 3 puntate sul comelico. Il comelico è un'area dolomitica dell'estremo nord della provincia di Belluno, incastrata tra Alto Adige, Austria e Carnia, e caratterizzata da un territorio in parte montano e in parte boschivo, che comprende 5 comuni: Comelico Superiore, Danta, San Nicolò, San Pietro e Santo Stefano. La sua caratteristiche, appunto, di un paesaggio prevalentemente integro e caratterizzato da ampie zone boschive, tra le più ampie dell'arco alpino, nonostante siamo in una zona che confina con i Luna Park della Valpusteria, dell'Ampezzano, e nonostante questo il forte radicamento alle tradizioni, al territorio, alla cultura ladina che sopravvive in queste vallate, ha fatto sì che si siano in gran parte salvate da una certa mercificazione, da una trasformazione in un Luna Park turistico, come è stato per altre zone delle Dolomiti. Questo è importante perché, al di là della difesa del territorio, permette anche a chi vuol visitare quei luoghi, a fare gite, itinerari, arrampicate, di poter godere ancora di ambienti montani a misura d'uomo e sostenibili per l'ambiente che li ospita. Dicevamo 3 puntate. In questa prima ascolteremo un'intervista a Carlo De Martin sull'Istituto delle Regole e sull'attività Malghiva. Poi proporremo dei suggerimenti di lettura per scoprire posti e luoghi e itinerari per chi si vuole avventurare da quelle parti. E infine, in una terza e ultima puntata, sentiremo un'intervista a Stefano Golin che ci parlerà della tradizione del carnevale di Dosoledo, una delle frazioni di Comelico Superiore, e sulla scultura del legno. Buon ascolto. Carlo De Martin Topranin, 54 anni, comegliano, una volta giramondo, ma sempre legato alla sua terra, al territorio, alle sue tradizioni, e in particolare ad un aspetto di questa, la gestione dei beni comuni, attraverso uno strumento, le regole, che adesso andremo a meglio a spiegare. Molto legato anche all'attività agro-silvo-pastorali, sia come malgaro che come amministratore locale. Carlo, raccontaci brevemente cosa sono le regole. Allora, le regole sono dei lasciti dei nostri vecchi. I documenti che certificano risalgono fino ai, credo, ai 1100-1200, insomma, i documenti che il lascito, il laudo si chiama il laudo. In cosa consiste? Allora, per la sopravvivenza in queste zone le famiglie si univano, no? Avevano queste proprietà terriere indivisibili, per cui ancora adesso è una forza per la loro sopravvivenza, inalienabili, indivisibili e inusocapibili anche, per cui sono tutelate da una legge regionale e per il passato erano l'unica sussistenza per i nostri paesi, perché la costruzione delle case, specialmente dopo incendi, che tutte le case erano in legno, per cui la legna per costruire le case, il legnattico per scaldare il fuoco che ho appena fatto qua anche adesso, no? E tutta la storia pastorale e agraria era tutelata da queste regole, e lo è ancora. Per cui ogni paese ha la sua regola, di diritto entrano i figli dei regolieri, per cui se tu sei figlio lo sei di nuovo. Insomma, adesso c'è in ballo un'evoluzione di questa storia, perché logicamente bisogna seguire i tempi. Ma la base di tutto è il fuoco, cioè il fuoco nel senso famiglia. No? Ecco, si è un po' ampliato, perché anche le persone che non hanno famiglia, che vivono da soli, però hanno un fuoco, per cui il fuoco è alla base di questa storia. No? Ecco, come provvedono le regole da questo punto di vista, appunto, a sostenere, aiutare le varie famiglie, la comunità locale? Allora, per il passato, fin quando i comuni non avevano una forza economica, insomma, parliamo fino agli anni 60-70, le regole erano proprio la forza di sostenimento anche dei comuni, perché tutte le grandi opere dei nostri paesi, tipo acquedotti e fognature, illuminazione, sono state fatte proprio dalle regole, con soldi propri, insomma, donati al comune. Adesso è un po' cambiata tutta la storia. C'è ogni anno, dipende dalle regole, chi più chi meno, hanno la possibilità di tagliare una parte del loro bosco, sempre tutelato dalle norme, piani economici di taglio, tutto sorvegliato dai forestali, e col denaro che ne ricavano mantengono gli stabili, spese per il culto, chiese, campanili, canoniche. La nostra regola, ad esempio, di Padova ha costruito le scuole elementari. Se c'è qualche regoliere che ha bisogno, anche viene aiutato. Quindi possiamo definire le regole, nel suo cambiamento, anche in anni moderni, come un piccolo modello di autogoverno comunitario e solidale del bene comune? Sì. Io parlo per la mia regola, che è di Padova. Ad esempio, nel tempo si è evoluta assieme al paese, perché è un paese turistico, ad esempio, e ha investito centinaia e centinaia di milioni di lire prima e di euro poi negli impianti di risalita delle piste da sci d'inverno, per cui ha cambiato un po' nel tempo, non dimenticando l'agro silvo pastorale, ma ha inserito queste novità, certo, che sono d'oggi. Ecco, tu citavi l'agro silvo pastorale, una appunto delle attività negli anni specifiche delle regole è stata la proprietà, il mantenimento sia delle malghe che degli appeggi. E in uno di queste malghe, tu negli anni sei stato anche protagonista, gestore, malgaro. Com'è la vita del malgaro oggi? Com'è l'attività agro-silvopastorale in questa montagna, sempre più magari dedita al turismo che non a chi appunto vuol fare della pastorizia, dell'allevamento? Oddio, la vita in montagna del pastore più o meno come una volta, insomma, ecco. Diciamo che è cambiato quello che c'è nella pancia del pastore, perché una volta c'era solo il latte, insomma, no? E tutti i derivati del latte, adesso è una vita un po' meno povera. È un po' meno povera, insomma. Però a parte che molte malghe sono state dotate di infrastrutture, di strade, di accesso, per cui si può arrivare con una jeep o con delle moto, però la vita è sempre quella, scandita dal tempo, insomma, dall'alba e il tramonto, la mungitura al mattino, il bestiame che viene portato al pascolo, la lavorazione del latte, e alla sera si riprendono le mucche, si rimunge, si va a dormire tardi perché si è stanchi e ci si rialza al mattino, ogni giorno sempre quella. Certo. Diciamo. E quante malghe oggi gestiscono o hanno di proprietà le regole del Comelico? Le regole del Comelico, ogni regola ha una malga, non credo che ce ne sia neanche una che non ce l'ha, o se non ha la malga ha il diritto su un'altra malga, perché era proprio una necessità, era una necessità della comunità agreste, no? Certo. Perché quella era l'unica vita fino a dopo la guerra, insomma, dopo la seconda guerra mondiale, no? Ho perso il filo. No, si dice a quante malghe per a quante malghe? Una malga, qualcheduna ne ha, quelle più ricche ne hanno due, certe regole le hanno più grandi, altre le hanno più piccole. Parecchie malghe sono state trasformate in agriturismo, per cui abbinano le due cose, vendono i loro prodotti, cucinano anche qualche cosa, però nel nostro comune, che ci sono quattro regole e quattro malghe, sono ancora tutte aperte, insomma, e caricano un bel po' di bestiame, certo. Diciamo che potranno, certo, essere, non so, dico così, a occhio, 300-400 capi, sicuramente, insomma. No? Certo. Ecco, un'ultima domanda. In un'epoca in cui, bene o male, abbiamo visto comuni, un po' tutte le i vari ambiti del governo, dello Stato, delle istituzioni pubbliche, spingersi sempre più verso privatizzazioni, svendite di patrimonio pubblico, cosa permette, cosa consente ancora invece alle regole di riuscire a tutelare questa, le sue proprietà, i suoi boschi, i suoi prati, i suoi alpeggi? La tutela è semplice, è data dal laudo, quello che ti ho detto prima, cioè l'inalienabilità, perché come per l'Alto Adige, no? Come per i nostri vicini qui dell'Alto Adige, loro non hanno mai avuto le regole, ma hanno avuto il maso chiuso, che è tutelato da una legge, anche il loro maso chiuso. Il loro maso chiuso può essere venduto, non solo ereditato, però non può essere mai spezzettato. E quella è la forza loro di difesa del territorio. Di difesa. La nostra invece era differente, era già un senso di comunità, non ogni famiglia per conto suo, loro hanno anche un'altra struttura delle loro valli, hanno anche una dispersione, non hanno tanto un centro del paese, hanno solo la chiesa e il cimitero in mezzo, se no stanno su tutte le... Noi invece abbiamo sempre avuto questo senso di comunità. E la difesa della comunità era questa, l'aiuto e la difesa. E se non puoi venderlo, non lo puoi vendere, perché sennò l'avrebbero venduto prima di noi qualche don altro, insomma. Grazie, dai. Carlo. E venite a trovare e a conoscere il Comelico, le malghe e i suoi alpeggi, che ne meritano. Giravoce che il primo reality show di montagna sia finalmente finito, noi lo vogliamo salutare con un profetico pezzo di Giorgio Gaber. Vi presento la mia famiglia, non si trucca, non si imbroglia, è la più disgraziata d'Italia. Anche se soffriamo molto, noi facciamo un buon ascolto, siamo quelli con l'audience più alto. I I miei genitori, due vecchi intronati, per mezz'ora si sono insultati e c'eravamo tanto amati. Dalla vergogna lo zio Evaristo si è nascosto, poro Cristo, l'han già segnalato a chi l'ha visto. Il ginetto dell'idroscalo, quando la moglie lo manda a fanculo, piange in diretta con Sandra Milo. Per non parlare di mio fratello, che gli ha rotto l'osso del collo, ora fa il morto a telefono giallo. Ti chiami, da dove chiami, ci sono per tutti tanti premi. Pronto, pronto, pronto, tanti gettoni, tanti milioni. Pronto, pronto, pronto, con Berlusconi o con la Rai. E giù in Aspromonte c'ho dei parenti, li ho rivisti belli contenti, nello speciale rapimenti. Mentre a Roma c'è lo zio Renzo, che è analfabeto ma ha scritto un romanzo, e sempre lì da Maurizio Costanzo. E la fortuna di nonna Piera, che ha ucciso l'amante con la lupara, ha preso 20 anni in un giorno in pretura. Dio, che ha perso la capra in montagna. Siamo con Paolo, esperto escursionista che ha avuto esperienze anche come accompagnatore, poi correggimi se sbaglio, in montagna media e direi anche alta, a cui abbiamo chiesto di fare una chiacchierata su come sta cambiando l'andare in montagna, soprattutto ad alta quota, anche alla luce dei cambiamenti climatici. Negli scorsi numeri di Picchi di Frequenza ci siamo occupati anche di COP21, degli accordi che sono stati come dire, firmati a Parigi recentemente. Paolo è una di quelle persone che i sentieri e appunto le percorrenze ad alta quota le monitora spesso e si è accorto di come la montagna e i ghiacciai si sono radicalmente ritirati e si sono modificati nel corso del tempo. Quindi Paolo, partirei da qui. Secondo la tua esperienza, come sono cambiate le percorrenze in montagna, come sta cambiando il territorio ad alta quota, probabilmente alla luce dei cambiamenti climatici, del riscaldamento a cui assistiamo? Sì, innanzitutto un saluto a tutte e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda d'Urto e di Picchi di Frequenza. Sicuramente i mutamenti climatici, in particolar modo in un ambiente delicato come quello montano, negli ultimi almeno 25-30 anni, che sono gli anni che frequento le alte quote, sono estremamente visibili. Diciamo che se in alcuni ambienti, mi riferisco in particolar modo alle mie esperienze che ho avuto, per esempio, o sulle Ande sudamericane o a quelle patagoniche, i ghiacciai sono talmente di una vastità tale che è difficile vedere a occhio nudo gli arretramenti, proprio dovuto alla loro vastità, e quindi sono fondamentalmente monitorati da fotosatellitari e cose da questo genere. Altrettanto posso dire per quanto riguarda le mie esperienze in Himalaya. Sulle Alpi, ovviamente in dimensioni ridotte, questo fenomeno è estremamente visibile a occhio nudo. Ci sono degli indicatori specifici che testimoniano l'innalzamento climatico. Il primo, uno di quelli che mi viene così a mente immediatamente, è per quanto riguarda, ad esempio, prima ancora di parlare dei ghiacciai, per quanto riguarda la flora, la parte vegetativa. Uno degli altimetri che usavo quando ero ragazzo era la presenza o meno delle conifere, quindi sia che fossero decidue o sempreverdi, che indicavano un altimetro naturale più o meno fissato intorno ai 2000 metri, cioè sopra i 2000 metri cominciavano a sparire le piante, non c'erano più, e quindi insomma capivi che eri arrivato a una certa quota, dai 1800 ai 2000 metri. Negli ultimi anni è facile riscontrare presenze appunto arboree anche su una fascia compresa tra i 2000 e i 2200 metri, che sembra poco, ma è tantissimo per quanto riguarda le capacità vegetative di una pianta, e questo sta sicuramente ad indicare come si stiano innalzando completamente le temperature, e quindi la parte vegetativa sta conquistando, diciamo così, anche le alte quote, insomma comunque sopra i 2000 metri. Questo è sicuramente uno degli indicatori che avevo visto così almeno negli ultimi 15 anni, ecco, sicuramente negli ultimi 15 anni. Per quanto riguarda invece la questione legata più propriamente ai ghiacciai, beh, sicuramente ci sono dei fattori visibilmente subito riscontrabili, sia da un punto di vista dell'arretramento, per cui a vista d'occhio ti accorgi di anno in anno che i lembi dei ghiacciai, le morene comunque aumentano sempre di più e arretrano sempre di più l'attacco del ghiacciaio vero e proprio, e sia soprattutto anche un aspetto che viene poco così menzionato, è anche il volume che i ghiacciai stanno perdendo in questi anni, e te ne accorgi in particolar modo quando vai a fare magari delle escursioni di avvicinamento o ai rifugi alpini o comunque all'attacco delle vie, dove aumenta considerevolmente la parte, diciamo così, rocciosa dell'avvicinamento, e questo comporta sicuramente un cambiamento anche radicale sul modo di rapportarsi ad alcune vie. Ti faccio qualche esempio, diciamo così, per capirci, delle vie anche, come dire, le più facili, le più tradizionali, quelle più frequentate. Non mi addentro magari in vie un po' più difficili, specifiche, dove fondamentalmente poi lì di anno in anno, a prescindere poi dai cambiamenti climatici, le condizioni di innevamento e di ghiaccio, certo, sono mutevoli, per cui sicuramente quelle sono, diciamo così, una parte dell'attività alpinistica che poco ne risente in parte di queste cose, proprio per l'alta difficoltà delle vie. Mentre per quanto riguarda le cosiddette vie normali, ecco, che sono non le vie non le più facili, ma le più facili per accedere ad alcune cime, in particolar modo ai 4000, si riscontrano sicuramente dei cambiamenti estremamente visibili, come dicevo prima. Uno delle cose che ricordo in particolar modo, per chi ha avuto, come dire, la fortuna di andare a frequentare le Dolomiti, che non sono sicuramente famose per i propri ghiacciai, ma per la verticalità delle loro stupende rocce, però se qualcuno gli è capitato di andare in Marmolada, ad esempio, sul versante nord si sarà accorto che per salire la via normale alla Marmolada, se prima camminava sulla neve per 8 ore, attualmente si sarà ridotto di un pezzo del 50% la parte nevosa, diciamo così, della salita, e implica il fatto di avere capacità di progressione che sono ben diverse tra camminare su un manto nevoso o anche ghiacciato, piuttosto che camminare su una superficie di roccia levigata dal passaggio del ghiaccio, cioè quindi cambia radicalmente proprio l'approccio anche di salita e le difficoltà tecniche. Proprio in questi giorni stavo per esempio leggendo una relazione a una via di media difficoltà, una classica per chi si avvicina ad esempio all'attività di ghiaccio sulle Alpi, la nord del Ciarporo, nel gruppo del Gran Paradiso. È una via di media difficoltà che io feci circa una quindicina d'anni fa, più o meno a metà giugno, e ho letto proprio che chi l'ha fatta ai primi di giugno dell'estate scorsa, nella relazione scrive che gli affioramenti rocciosi ormai implicano passaggi di terzo grado su roccia. Io ricordo che quando la feci la roccia non ne vidi, insomma il problema era in quel periodo, quindi parlo di 15 anni fa circa, se trovavi o meno del vetrato, del ghiaccio vivo, ma non affioramenti rocciosi, la via era completamente di neve e ghiaccio dalla base fino a questa strettoia che è a tre quarti dalla via, e poi la calotta sommitale era facilmente poi insomma superabile con la tecnica di progressione su ghiaccio, insomma niente di che. Leggere che quella parte ai due terzi ormai si è completamente affiorata ai primi di giugno e implichi i passaggi di terzo grado fa capire come non solo appunto che siano arretrati i ghiacciai, ma quanto anche il volume delle pareti di ghiaccio si siano talmente ridotte che ormai il problema non è più che condizioni di ghiaccio trovi, ma il fatto che non lo trovi più. E quindi cambia radicalmente l'approccio. Altre così, diciamo così, esperienze dirette sicuramente lo si notano su altre montagne, penso per esempio così per gli ascoltatrici e gli ascoltatori, una via estremamente conosciuta come quella della salita al rifugio Regina Margherita, la Punta Agnifetti sul Monte Rosa, di 4.554 metri, prevede che più o meno dalle varie vie di accesso, la più comune, quella che saliva con la funivia a Punta Indre, a 3.300 metri, prevedeva che l'avvicinamento al rifugio Nifetti, che è a 3611 metri, fosse totalmente percorribile su nevaio e ghiacciaio, tanto che era una delle stazioni di sci estivo. E quindi, uscita dalla funivia, si calzavano i ramponi e la progressione avveniva già da lì, insomma, su un terreno nevoso, almeno se non ghiacciato, sicuramente nevoso. Bene, chi la percorre, e in questo parlo di almeno fino a 30-20 anni fa, era così. Poi piano piano è cambiato, tanto che nelle relazioni veniva scritto che a un certo punto c'era semplicemente da girare delle piccole roccette, così erano le guide degli anni 80 più o meno, sì, più o meno metà anni 80. Attualmente chi è andato si accorgerà che è uscito dalla funivia deve percorrere gran parte dell'avvicinamento su sfasciumi rocciosi, la parte di ghiaccio è quasi praticamente scomparsa e si trova a dover superare una bastionata rocciosa di diverse centinaia di metri di sviluppo orizzontale, di diverse decine di sviluppo verticale, attrezzato con una lunga via ferrata, ma di una, non tanto di una certa difficoltà, ma sicuramente di una certa lunghezza. Ma parlo di un bel po', cioè devi percorrere questa bastionata rocciosa per diversi metri, insomma, implica anche uno sforzo diverso. Questo per far capire come è completamente cambiato il modo di andare in alta quota, cioè devi prepararti mentalmente al fatto che se una volta determinati percorsi erano percorribili interamente su manto nevoso, attualmente non è più così, e anche per l'avvicinamento a punti d'appoggio come sono i rifugi alpini, che sono quindi poi attrezzati, questo implica sicuramente dall'erosione dei ghiacciai a delle superfici di roccia estremamente levigate, quindi non facilmente a volte percorribili, per cui la necessità è poi di implementare la via d'accesso con vie attrezzate, con cosiddette ferrate, e che in un certo qual modo comunque, poi ci sono i favorevoli e i contrari, io particolarmente non le ho mai amate, deturpano comunque un po' l'ambiente naturale nelle alte quote, perché insomma una ferrata implica o la messa sulle rocce di catene piuttosto che di scale, scalette eccetera eccetera, insomma comunque è ormai impossibile altrimenti poter accedere a questi grandi rifugi che sono le porte d'ingresso appunto a, poi ad altre escursioni più ad alta quota. Certo. Anche la 16ª puntata di Picchi di Frequenza volge al termine. Questa settimana non abbiamo avuto spazio per la consueta recensione, quindi recupereremo la prossima con qualcosa di speciale. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, come sempre vi invito a segnalazioni, suggerimenti, critiche anzitutto all'indirizzo mail abo@inventati.org, sul social network azzurro all'account @abuzzo3 o su quello blu alla pagina Picchi di Frequenza. Tutto il resto lo trovate sul sito internet amonte.info. Noi ci risentiamo venerdì prossimo sulle libere frequenze di Radio Onda d'Urto.